America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, già qualche giorno fa qui ai microfoni di Radio 24 avevamo analizzato come la crisi ucraina ha delle ramificazioni che si estendono ben al di là dell'est europeo, ben al di là dell'Europa e penetrano in profondità il Medio Oriente. Ne abbiamo parlato quando il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu si è recato in visita alla Casa Bianca, ha avuto un incontro con Barack Obama, molta freddezza sul piano politico. Ecco, io vorrei dedicare la trasmissione di oggi a questo, ma prima vorrei darvi una piccola nota riassuntiva su un episodio di cronaca di ieri. Israeli naval forces intercepted. Scontro a fuoco, questa volta non in Ucraina, ma nelle acque al largo del Sudan, questa volta non per via di pirati, ma perché un comando israeliano a bordo di canotti ha attaccato una nave che batteva bandiera panamense, la quale in realtà era, pensate, una nave iraniana con dei missili siriani che erano destinati a Gaza e facevano il loro percorso al largo del Sudan per poi risalire il canale di Suez e arrivare nel Mediterraneo e depositare questi missili a Gaza. E la cosa interessante qual è? Non soltanto la natura dell'operazione, perché poi gli israeliani hanno catturato 17 prigionieri, hanno dichiarato di avere 17 prigionieri di Israele senza specificare di quale nazionalità fossero, ma la cosa interessante è che il Pentagono ha collaborato a questa operazione. Dunque, da un punto di vista politico-diplomatico, Netanyahu e Obama sono freddi, anzi gelati e distanti, e dal punto di vista militare in realtà i due paesi ovviamente collaborano, e non dimentichiamo che in questo frangente Barack Obama ogni volta che può deve dimostrare che l'America c'è, che l'America può essere attiva dal punto di vista militare, soprattutto quando un leader come Vladimir Putin fa il bello e il brutto tempo, non soltanto in Ucraina come abbiamo visto, ma in Siria, in Medio Oriente, dovunque vada si afferma, che poi sia bullismo o meno irrilevante, il fatto è che riesce ad ottenere quello che vuole e, come si dice in inglese, he leaves an impression, lascia il segno. O con me ai microfoni di America 24 per parlare di questo quadro in evoluzione, anche perché oggi a Roma si affronterà un altro capitolo che riguarda il Nord Africa, il Medio Oriente, e cioè la Libia, la conferenza internazionale della Libia, dove John Kerry e Sergei Lavrov, ministri degli esteri degli Stati Uniti e Russia, saranno nella stessa stanza per parlare di Libia, ma naturalmente per parlare di altre cose. Ci sarà una conferenza stampa poi più tardi nel pomeriggio, fra qualche ora, che ci darà il quadro di questa situazione libica. E dunque io con me i microfoni di America 24, Maurizio Molinari, vecchio amico, vecchio corrispondente dagli Stati Uniti, a cui mi rivolgo con nostalgia perché ci ha lasciato e oggi svolge la sua nuova missione proprio in Medio Oriente. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a te, Mario. Allora, insomma, oggi abbiamo la Libia a Roma, abbiamo visto l'attacco al largo del Sudan, ci rendiamo conto che l'Ucraina sta destabilizzando il Medio Oriente, perché Barack Obama sa a questo punto che non può più appoggiarsi a Putin, aveva investito troppo su Putin sia per la Siria che per l'Iran. Ecco, la domanda è: aveva davvero investito troppo? Ma sicuramente Putin sta giocando una sua partita solitaria, rafforza l'influenza della Russia, la crisi siriana e la crisi ucraina sono gemelle. Putin da un lato difende il porto di Tartus, dall'altro il porto di Sebastopoli, sta tutelando l'interesse della flotta russa nel Mediterraneo. Quindi gli Stati Uniti appaiono più sulla difensiva, come ha titolato il Jerusalem Post, il Medio Oriente si trova di fronte alla determinazione, l'audacia di Putin e la timidezza di Barack Obama. Ecco, è un'audacia questa di Putin che viene presa con rispetto, mi sembra di capire, o con timore, o comunque che viene sicuramente considerata in Medio Oriente. Ecco, tu giri molto i vari paesi del Medio Oriente, non sei soltanto corrispondente di Israele, ma un po' di tutta la regione. E che impressione hai avuto nei tuoi giri nelle varie capitali arabe? Credo che quello che tu dici sia corretto. Amman, il Cairo, Ramallah, Putin sta acquistando credibilità. Anche nei paesi che sono tradizionalmente alleati e vicini degli Stati Uniti, dalla Giordania all'Arabia Saudita, quanto sta avvenendo in Ucraina dà l'impressione che il leader più serio e più aggressivo in questo momento sia Putin. Ecco, però devo dire che in qualche modo Netanyahu aveva avvertito Obama a non sbilanciarsi troppo con Putin, a non sbilanciarsi troppo sull'Iran, e Obama è andato dritto, devo dire, ha avuto anche apprezzamenti, parole di apprezzamento da molti nella comunità internazionale. Oggi Netanyahu dice: beh, avevo ragione io, sei d'accordo che questa è la posizione di Israele, di Gerusalemme? Sì, credo che in Israele ci sia un ritorno di popolarità di Putin impressionante. Guarda, devo dirti che al centro di Gerusalemme, a Yafo Street, hanno aperto un pub che si chiama Putin Pub, con fuori le bandiere russe, la sera è pieno di gente. Ma e secondo te, da quel che stai dicendo, potremmo immaginare che alla fine il grande mediatore di una pace in Medio Oriente finisca per essere Putin invece di Obama? L'interrogativo da porci, Mario, è se questo richiamo della Russia nasce dalla debolezza americana o dall'efficacia russa. Però non c'è dubbio che il fatto che Assad stia vincendo la guerra civile in Siria è un segnale che nella regione comporta un successo politico russo, in dubbio. Ecco, certo, bisogna chiedersi fino a quando, per quanto tempo, con che prospettiva c'è questo successo russo, perché come tu sai l'economia russa è fragile, è debole. Immaginare di ricostituire una grande Russia, secondo molti nel medio termine, non è neanche pensabile, e dunque credo che la palla a questo punto sia davvero nel campo di Obama. Obama non può fallire la sua presidenza americana con l'onta di aver ceduto troppo o tutto alla Russia di Putin. Secondo te che cosa farà per recuperare? Credo che la risposta potrà arrivare dalla sua prossima tappa a Riyadh. Al termine del viaggio europeo lui andrà dal monarca wahabita, avrà un incontro importante, affronterà il nodo dell'Iran, il nucleare, il negoziato in Medio Oriente e più in generale il rapporto fra lui e i grandi giganti del mondo sunnita, l'Arabia Saudita e l'Egitto, che in questo momento hanno motivi di attrito. Sarà quello, io credo, un incontro decisivo dal quale vedremo se Obama riuscirà a recuperare parte del terreno perduto. È la più grande potenza del mondo, resta la più grande fonte di innovazione e rinnovamento tecnologico ed economico che c'è sul pianeta. La palla è nel campo di Obama. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Monster Truck ha lanciato un nuovo single, titolo The Lion. Il gruppo si prepara un tour di 2 mesi in Nord America, passerà da New York il 24 aprile. Di Monster Truck, The Lion. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!